Jake La Furia, Jake La Furia. Matt Maori, Matt Maori. Club Dog, Club Dog. Milano, Milano. La vita loca è malata, la gente lo sa, ma ne è innamorata. Va dal madama fino al pusher di strada, va dalle fughe all'intifada, da un balordo fino al suo Torquemada. Scannare BL su una bima rubata, berette special, full clip, grattate dopo una rapina. Fanculo, la febbre del cash non conosce aspirina. Pitbull, pieni di segni di ciapponi, guaiscono ai padroni, che per guardarli morenti non hanno i coglioni. Sto tra cani, foni, papponi, buoni infamoni. Problemi, soluzioni, lame cannoni, tra venditori di supply fumo una siga. Fanno la bella vita, manca una riga nel tanite, la pacchia è finita. Solo il più forte sopravvive senza aspettative. Da calci in bocca e lava le scarpe con il palmolive. Si sentono vagiti, è la strada che crea i suoi miti. Miti di vita loca come Ricky. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Milano, 2 anni dopo il 2000, c'è sempre un gaggio che fa di più e qualcun altro che lo tira. La gente non vuole mettersi in fila, sa che arriverà prima chi comanda la strada è alla 100.000. La tele trasmette fasto e ricchezza, viste dagli occhi di povertà e tristezza. L'equilibrio si spezza, qualsiasi monnezza venduta a peso d'oro da gente grezza, finisce che per i soldi la gente ammazza. A Milano la vita loca si fa, prima onore e rispetto, poi il pane a casa, poi preghi la Trinità. Nell'oscurità un pappone picchia una slava, fuori la lama, tanto sa che la coscienza si lava. La notte a vittime carnefici, sa dei traffici illeciti, dei tossici in deficit. E sa chi ne riscuote i debiti, sa che la strada è un posto dove non si gioca. Sa chi non ha i coglioni per fare la vita loca. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Credo che la vita loca mandi gente allo sbando. Sei in branco, gli sparpati si vanno uniformando a questo cliché. In quanto a me, la gente in strada mi bacia le guance. Ne so i nomi e ne conosco le facce. So che chi conta va in giro vestito a festa, poi un madama lo arresta, fino a che qualche suo socio gli spara in testa. Non mi fido di sta gente, quindi sputo sulla mano che poi tendo per dargli il saluto. E rido compiaciuto, so che un mondo in cui fidarsi è impossibile, in cui tutto lo scibile umano mette regole in vano. L'esempio è Milano. Cosa succede? Cosa succede in città? Penso al futuro per me, per i miei fra. In Italia la storia è sempre più triste, i rapper parlano di queste situazioni e non le hanno mai viste. Io so tra scontri, botte, bocce e piste. O sei nato per la vita loca oppure non esiste. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Per tutti i chiacchieroni italiani, la prova del 9 è in strada, 2002. A Emiliano, come si sta là dentro fra? Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Sono la voce di strada, racconto com'è che va. La voce stonata, dopo c'è chi non ne ha. La voce distorta, un grido di voce loca. Racconto la vita loca. Sono la voce di strada, racconto.